We're going to start a live recording right now. We're going to play for you our first tune tonight. It's going to be about four tunes. And the first tune is called Olohun Ta Wa Se Yara Je Ka Bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes. One, two, three. Siamo entrati, siamo in diretta, abbiamo iniziato alle 21.00 spaccate, siamo in diretta da Ex Algi in Milano, l'ha detto Ferracuti, let's start what we have come into the room to do. Oh yeah, ciao amici. E quello che siamo venuti a fare in questa stanza si chiama Battito Madre, l'ultimissimo talk show di Astarbere. Noi siamo, ve lo ripeto, in diretta su astarbere.com, questo lo sapete, ma anche live dal vivo da Ex Algi in Milano. E noi siamo io, che sono Piero, e voglio presentarvi quello che sarà per questa stagione radiofonica e forse anche per le successive, ma insomma ne potremo parlare, quello che sarà il mio compagno di viaggio. Coli, benvenuto. Ciao Pierino, onorato davvero di questo invito che mi hai fatto, mi ha reso felice, mi ha aperto il cuore, mi ha fatto venire voglia di scoprire cose, curiosità, mi ha acceso cose, quindi sono molto contento che mi hai chiamato a venire qua da te. Bellissimo, perché questo sarà uno spazio di curiosità. Noi appunto siamo semplicemente degli appassionati di black music, è esattamente quello che veniamo a fare, cioè Battito Madre, un mensile, noi parleremo di black music, questo viaggio sostanzialmente a monografie in cui attraverseremo una serie di generi della black music abbastanza in senso cronologico in questa prima stagione, per scoprirla, come abbiamo scritto nell'abstract, come la sostanza della quale è fatta oggi quasi tutta la musica. Sì, quasi, quasi tutta. Che cosa vuol dire questa cosa? Ma non lo so, che cosa può voler dire? Può voler dire che quello che stiamo ascoltando ormai direi per il 100% del, facciamo diciamo 99% delle cose che ascoltiamo deriva un po' dalla black music, o sbaglio? Non sbagli, senza dubbio, se no non staremo qui a fare questa cosa, però già incontriamo una prima difficoltà, che è quella di capire di che cosa stiamo veramente parlando, perché la black music è qualcosa di cui è molto difficile parlare, perché si fa fatica a metterci il dito sopra, soprattutto avendo la coscienza di essere bianchi europei, per cui c'è sempre, no, quel limite lì del... dell'appropriazione culturale, che è molto molto labile. Certo, e poi non è un genere, giusto? Esatto, è questa cosa allo stesso tempo molto vaga e però comunque molto precisa, perché si identifica, almeno nella maggior parte dei casi, quello che è black music e quello che non lo è. Diciamo che per essere un po' vaghi, senza però perdere precisione, possiamo dire che la black music è sono tutti quei generi musicali che in qualche modo possiamo ricondurre a quella che è la musica tradizionale africana. E anche qui in realtà incrociamo un'altra difficoltà, perché la musica tradizionale africana vuol dire un po' tutto e un po' niente, perché ci sono tante etnie diverse, tante appunto tribù, tanti popoli diversi dentro l'Africa, ognuno ha i propri riferimenti letterari, culturali, musicali, per cui già lì è molto complicato. Sì, parliamo di un continente, esatto, un continente che ha fatto, fa e produce musica dall'alba dei tempi, quindi, e soprattutto non è difficile fin dai primi, cioè fin dai primi, non lo so, musicologi, eccetera, dare delle definizioni di genere proprio, no, della musica afroamericana. Hanno dei ritmi, delle poliritmie in verità, e degli strumenti che definiscono quelli che sono i generi da stato, luogo, tribù, eccetera. E allora, però, per semplificare, perché bisogna anche un po' mettere dei paletti su quello che è un argomento, e andiamo tagliando, in realtà proprio no, però una data o un fatto fondamentale per parlare di black music è forse una delle tragedie più grandi che sia mai successa nella storia dell'umanità, cioè quella cosa che è successa più o meno a metà del secondo millennio dopo Cristo, cioè la schiavitù, la deportazione di milioni di persone africane dal continente madre, di nuovo Battito Madre, al continente quello che era all'epoca nuovo. Per cui, se vogliamo dire qualcosa, forse non sbagliamo dicendo che intanto la black music è il segno, no? Di quella ferita originaria, di quella diaspora. Noi parleremo di spostamenti di persone, molto, parlando di questa cosa. Perché la black... Per cui possiamo dirlo, che è il segno di quella ferita mai rimarginata, che probabilmente mai si rimarginerà. E forse allora possiamo dire un secondo elemento che ci fa identificare la black music è questo dolore. Questo dolore, il ricordo di quel dolore che però si attualizza, diventa sempre attuale ogni volta che viene nuovamente espresso. Dolore, sentimenti, una cosa che è abbastanza comune poi, no? Nella creazione musicale in genere. E io direi che questo mi sembra un ottimo punto da cui cominciare. Io, essendo una reggae person, quando sento parlare di spostamenti di persone mi viene in mente un pezzo che è iconico e ce ne andiamo a sentire, non c'è bisogno di annunciarlo, possiamo entrare. Movement of your people. E rieccoci in diretta, abbiamo sentito ovviamente per prassi radiofonica, lo diciamo, Bob Marley and the Wailers, il pezzo si chiama Exodus, tra l'altro l'extended version che dura 7 minuti e mezzo, noi infatti ce lo lasciamo bello bello in sottofondo. Ovviamente si parla di spostamenti di persone, io non posso che pensare a questo pezzo qui come reggae person, ovviamente a star bene è una reggae radio, per cui è sempre giustissimo mettere un pezzo di Bob Marley. E io, se ci sta ascoltando, lo vorrei dedicare a Piddu, che è l'original speaker di A Star Bene, il mio idolo come ciao, speaker. Piddu. Ciao Piddu, ti vogliamo bene. Però ecco, eravamo arrivati proprio a un po' cercare di dire che cosa sia la black music e cosa sia quello di cui stiamo parlando. Dicevamo che è un po' quello che porta il segno di quella ferita originaria che è stata la prima grandissima diaspora di cui dobbiamo parlare, che è stata proprio la deportazione degli africani e africane per essere ridotti in schiavitù nelle Americhe, come le chiamavano al tempo. Però da dove sono stati deportati? Cioè, ovviamente... Infatti ci sono dei luoghi madre della deportazione, chiedo perché sono ignorante. Allora, tu chiedi una cosa davvero interessante che vorrei essermi ricercato prima di questa diretta, cosa che non ho fatto, però diciamo che con un po' di logica possiamo arrivare a dire che sarebbe sostanzialmente dalla parte occidentale, certo, dell'Africa, perché poi ovviamente, tra l'altro ora andiamo a parlare di una cosa che succede esattamente in quelle zone là del mondo. Ma qual era allora l'ambiente culturale da cui queste persone sono state prese? Se di cultura si può parlare, perché insomma natura e cultura sembra che in i luoghi fossero ancora non definitivamente separati, però era ovviamente un altro tipo di spiritualità a quella a cui siamo abituati a pensare noi come europei, era una cosa davvero davvero diversa, sto per usare una parola molto grossa, perdonati, era una metafisica differente da quella che abbiamo noi proprio tradizionalmente. Sì. Ed è una spiritualità, se mi consenti di dirlo così, molto terrena, cioè se magari da noi era più una questione di elevazione, quel tipo di spiritualità invece aveva molto a che fare con il caldo, cioè, il freddo. Sì, sì, legata alla terra, no? Terrena. Perfetto. Così. Perfetto, sono assolutamente d'accordo. E secondo me una delle cose più interessanti che ho letto cercando di preparare questa puntata è questa, cioè che alla cultura africana, a molte culture africane, non hanno la divisione tra danza e musica. Questo è rivoluzionario. Io quando ho letto questa cosa mi si è davvero aperto un altro mondo, un altro modo di vedere queste cose. Danza e musica non sono separate in tantissime culture africane, e questa è una cosa che secondo me sta proprio alla base di quello che è la black music, perché ricordiamolo, abbiamo ancora la black music, 99,9 su 100 si balla. Poi beh, è bello pensare, no, che danza è musica e viceversa, cioè nel senso non posso ballare senza la musica, ma non posso neanche fare musica senza ballare. Molto... è un sillogismo, è profonda, perfetto, come cosa, sì. Profonda, ma allo stesso tempo è una di quelle cose che nel momento in cui la senti la riconosci come vera per sempre. Una cosa davvero interessante, una figura davvero interessante, una cosa che succede in questi, tuttora ancora oggi, in questi luoghi dell'Africa occidentale, è questo fenomeno dei griot di cui mi hai parlato, Colin. Insomma, che cosa succede là? Allora, non so entrare bene nel merito della questione, però i griot sono un po' quelle figure che stavano a noi occidentali, come i menestrelli, i cantastorie, erano quelli un po' cioè, i conduttori delle cerimonie. Poi non so se effettivamente il griot era una persona, oppure si parlava di griot come gruppo di persone, però erano comunque era la figura di riferimento, ecco, no? Era quello che magari il mastro cerimoniale, mettiamola così. Perfetto, allora per approfondire io intanto sto linkando quella che è un banalissimo link, tra l'altro viene da Wikipedia, sul canale Telegram di A Star Bene. Non abbiamo ancora fatto questa cosa, seguiteci sul canale Telegram di A Star Bene, perché noi condivideremo, dibattiamo, parliamo, discutiamo di tutto questo. Se avete voglia di stare bene, seguite A Star Bene. Se avete voglia di approfondire questa bellissima cosa di griot, andate, fate, vedete. Tra l'altro queste ci sono delle bellissime foto. Possono chattare in chat? Certo che possono chattare, devono chattare. Salutateci, insultateci, fateci complimenti. Esattamente, esattamente. Visto che di musica sì è bello parlare, ma sostanzialmente va ascoltata, Coli, che cosa dici se lanciamo il prossimo pezzo? Assolutamente. Siamo qua per, non per parlare, non siamo qua come in vesti di insegnanti o... non lo so, sapientoni, mettiamola così, ma siamo qua per ascoltare la musica, è di questo che vogliamo trattare. Via, dai, ne parliamo dopo. Eccoci. Eccoci, ciao Pierino. Ciao, ciao Coni, è sempre un piacere ritrovarti in diretta su starbene.com, sì, e su Radio Exalge. E su Radio Exalge. E dal vivo da Exalge in Milano. È un piacere continuare a vedere amici e amiche arrivare con noi. Sì, bello. Ecco, abbiamo appena sentito questa cosa. Esatto, volevo presentarvi un attimo questo pezzo, così giusto due cose, perché comunque è in linea un po' con quello che stiamo facendo noi. Avete appena sentito un pezzo di DJ Rapture, è un artista americano. Questo che avete sentito è il pezzo di apertura di un album che è sostanzialmente un mix di musica, di culture, eccetera. Questa era appunto la traccia di apertura. Infatti non so se avete sentito una certa, proprio un cambio abbastanza netto. Però funziona così, funziona molto bene e per qualche ragione è quasi inspiegabile anche un po' come il tutto, come questo mix di cose funzioni così bene. Però è proprio è la sua ricerca. Lui non so come dire, però il suo obiettivo è proprio quello di capire come nel XXI secolo la digitalizzazione abbia creato e aiutato il circolo della musica e delle culture. Quindi fa quasi portavoce di sviluppo, di cose che si mescolano l'una all'altra. Niente, devo dire che lo fa molto bene. Mi piace moltissimo. Minesweeper, questo l'album, ve lo consiglio. Perfetto, che è una cosa abbastanza 2006, recente. 2006, forse? Non troppo recente in realtà, però abbastanza recente ovviamente rispetto alla cosa di cui stiamo parlando, perché ovviamente questo non era un esempio della musica tradizionale africana, ma di un qualcosa che ci si avvicina molto e che si ispira a quello, perché noi là eravamo rimasti e là stiamo un po' tornando a quel luogo da cui è successa la deportazione, la tragedia, la diaspora, la prima grande diaspora di cui parleremo noi. Dunque, queste persone furono portate nelle Americhe, appunto dotte in schiavitù, ma furono private della propria tradizione, della propria cultura, del proprio nome. Questo è un esercizio che noi forse abbiamo fatto tante volte perché ce lo raccontano, forse non l'abbiamo mai davvero fatto. Difficile. Infatti, ma il fatto di essere, di perdere il proprio nome, perdi completamente la provenienza, perdi il tuo da dove, perdi un po' strumenti, che è quello che sono stati. Però la cosa di cui noi qui vogliamo parlare è che non hanno potuto perdere tutto, perché c'era quel tipo di spiritualità di cui noi abbiamo parlato prima, quel tipo di musica che non è mai separato dal movimento del corpo, non dalla danza, dal movimento del corpo. Queste persone non l'hanno potuto perdere e anzi forse è stata una forza che ha consentito di un po' sostenere. Loro hanno fatto leva, per fortuna direi, cioè nel senso questo li rende sono stati fortunati ad avere probabilmente ad avere se essere riusciti a portare quello che avevano purtroppo in questa disgrazia in cui sono finiti. Forse una delle più grandi forme di resistenza di cui possiamo parlare, si può dire. Certo. La resistenza artistica, bellissimo. Anche se appunto la narrazione, quello di cui ci parlano a scuola, non lo so, spero di non l'abbiamo mai sentito, ma io l'ho sicuramente sentito. Gli schiavi nei campi di cotone cantavano per sopportare la fatica. Questa è una cosa davvero troppo semplice, anzi con una mentalità molto coloniale. Era una rivendicazione di identità. Ci avete tolto tutto, ci avete portato via da casa, ma quello che io ho dentro non me lo vedi. E noi siamo esattamente questo. Per cui da qui è che nasce la black music. Uno dei primi, anzi forse il primo genere di black music è stata esattamente la work song. La canzone che si cantava mentre si lavorava, mentre si faceva fatica. A volte magari conteneva anche dei messaggi in codice per aiutarsi, per dire che qualcuno aveva bisogno di qualcosa, per darsi dei consigli su come scappare o su come beffare il padrone. Sai come dice il nome work song, cioè nel senso era una cosa che comunque doveva accompagnare il lavoro, quindi è vero, in qualche modo facilitare il lavoro, scandiva il tempo e faceva comunque tutte quelle cose lì, però non si può ridurre a quello, gli veniva da dentro, era una cosa che noi non avevamo lì, cioè la gente non aveva, aveva altro e loro sono riusciti a portare quello lì nel nostro mondo. Ed è stato rivoluzionario, perché se noi oggi possiamo parlare di black music come di qualcosa che esiste è grazie a questo. E allora, senza ascoltare, perché a noi gli ascolti didattici non piacciono molto, io adesso potrei mettere quella che è la riproduzione di una work song nel 1700, no, posso mettere però qualcosa che viene da là, e diciamo che quando si parla di black music, suonare un pezzo di Nina Simone è sempre un grande piacere. Questa è Nina Simone, il pezzo si chiama Work Song, è del 67, senti un po' come fa, Coli. Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause it done convicted me a crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I needin' crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years on chain gang you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. See my sweet honey babe, I'm gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hot in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, working and slaving. Nina Simone, The High Priestess of Soul, che è anche il titolo dell'album che contiene questa canzone, insomma, poco altro a dire se non i brividi che dà sempre questa donna quando canta. Anche se noi, Mr. Coli, siamo qui a parlare di altro, di Nina Simone, anche se probabilmente potremmo inventarcene un talk show su Nina Simone per tutte le cose che ha fatto nella propria vita. Si sì. Sentono sempre noi, qualcuno ne potrebbe parlare meglio di molto noi. Molto meglio di noi, infatti noi evitiamo. Infatti noi evitiamo, no? Ma perché ci siamo suonati questo pezzo? Perché si chiama Work Song e nonostante non appartenga al genere delle work song, il testo, se l'avete ascoltato bene, riprende esattamente un testo di una work song, un pezzo del 67 di rara bellezza. Però appunto noi stavamo dicendo di questa work song, dell'apparizione del primo genere di black music. Sì, per quella che è, esatto, perché noi occidentali abbiamo deciso di chiamare black music, cioè. Perché se no è solo music. No, esatto. Ma è successa una cosa decisiva, che ovviamente quando tu sei privato della tua libertà, quando sei tutto schiavo, sei anche costretto a adottare gli usi, costumi e tradizioni dei tuoi aguzzini, per padroni, certo. Una parola davvero brutta che non voglio neanche, i tuoi aguzzini, perché stiamo parlando di tortura. Per cui tra tutto, in tutte le cose, la cosa più importante di cui noi qui vogliamo parlare è quello della religione. E qui c'è un primo passaggio, c'è un, sì, primo genere che nasce da quell'altro genere, cioè quello degli spirituals, che, esatto, all'epoca venivano chiamati negro spirituals, cioè musica nera con temi, possiamo dire, bianchi, perché cristiani. Ovviamente, esatto, perché le religioni, una volta deportati si sono, non, ovviamente non si sono fuse, ma hanno iniziato a coesistere, coesistere. Sì, a mischiarsi forse addirittura, perché lo possiamo vedere ancora adesso. Mi viene in mente, io non ci sono mai stato, ma ho visto video, ho sentito racconti, andare una domenica a messa in una comunità nera negli Stati Uniti è un'esperienza che è davvero dell'altro mondo rispetto a una persona che conosce la messa qui in Italia e in Europa. La musica, il ballo, il movimento è una cosa che là è rimasta, fa parte di quel tipo di cristianesimo là, qualsiasi tipo di cristianesimo poi sia. Però ecco, questo è davvero un passo decisivo, perché appunto frequentando la chiesa, la musica di queste persone si è intrisa di messaggi religiosi, e soprattutto questo popolo in sofferenza, e questa è una cosa da sottolineare e risottolineare, sì, so dove vuoi arrivare, ha sentito raccontare le sofferenze del popolo ebreo, ebraico, quando era in schiavitù a Babilonia, e ci si è ritrovato e ci si è riconosciuto, certo, completamente, ci è riconosciuto completamente, sì, sì, sì. E infatti questa è una cosa su cui avrò modo di tornare quando nella puntata vi parleremo del reggae. Credo che la black music sia puntellata di episodi magici, di episodi che fanno realizzare le cose di cui poi la musica parla, e questo secondo me è uno di quei casi. Un popolo portato via dalla propria terra, ridotto in schiavitù. Quindi, che cos'è la cosa fondamentale? Nella black music si è cominciato a parlare di Bibbia e poi di Vangelo, ma ci arriviamo dopo al Vangelo. Sì, sì, sì, sì. Questo passaggio fondamentale è quello che fa sì che noi oggi, questo è un pezzo in realtà del 2002-2004, mi sembra, ma possiamo ascoltare un giamaicano, Barrington. Esatto, Barrington, Lini, che canta un pezzo che si intitola La mia Bibbia, su Night Nursery Rhythm di The Cold Ruler, Gregory Isaacs, insomma una cosa meravigliosa. Sentiamo questo messaggio che possiamo dire già gospel, non appartiene a quello che sì, forse un po', immaginiamo. Ovviamente è una cosa arrivata dopo, perché Barrington comunque... Questo pezzo è del 2002, sì, sì, questo 2002. È del 2002-2003 mi sembra, non vorrei dire cazzate, ma mi sembra di sì. Ma sentiamo, sentiamo, Barrington Levy, My Bible. Way. My Bible, Barrington Levy, questo pezzo nel frattempo non ho controllato davvero di che anno sia, ma ripeto, sicuramente 2002, 2003, 2004. Mentre siamo di nuovo in diretta su astralbere.com, siamo Piero e Coli, questo è Battito Madre, mensile in cui parliamo di black music, è la cosa che ci riempie le vite. In diretta su astralbere.com e su Radio Exalge e dal vivo da Exalge in Milano, come dicono poi quelli seri. La prossima passate a trovarci. Esatto, la prossima passate a trovarci se non l'avete fatto sto giro, se invece l'avete fatto sto giro vi riaspettiamo la prossima volta, e la prossima volta è il 25 gennaio, manca tantissimo. Lo sai una cosa che non abbiamo fatto, Coli, ancora in questa puntata? No, in tante sicuramente. Ringraziare la regista. Sì. Che ovviamente, Nene, ovviamente, ma grazie anche a Star Bene, a tutto il team. Certo, bravo, salutiamo tutta la squadra di A Star Bene. Questa era una cosa che ero abituato a fare tutte le sere e tutte le volte che andavo in diretta, invece oggi non l'ho ancora fatto. Grazie a Star Bene che ci fa fare radio, che è una delle cose più belle del mondo. Radio e black music, probabilmente io non farei Battito Madre tutta la vita. Grazie anche a Silo che è venuto a darci una mano per la parte tecnica e probabilmente è stato fondamentale, perché io di tecnico davvero c'ho poco, anche se il buon Coni in realtà è molto skillato. Sì, ma ragazzi, se la son cavata il reggiamento. Va bene, cazzo sto dicendo. E allora andiamo avanti, Mr. Coni. In sottofondo, tra l'altro, noi ci stiamo sentendo, perché mica pizza e fichi, noi ci stiamo sentendo in sottofondo. Senti come glissa questo fader. È Fela Kuti e Africa 70, tutto l'album che dura un'ora, che si chiama Zombie. Non abbiamo in tutti gli speech di questo programma, che dura da 40 minuti, non abbiamo ancora finito di sentire la prima traccia che sta finendo in questo momento. Ma dunque torniamo a noi, perché io prima ho detto che questa traccia di Barrington Levy, che si intitola My Bible, potrebbe essere chiamata un gospel, perché a differenza degli spirituals, in che invece è un genere musicale davvero ben definito, che è esattamente quello che abbiamo appena raccontato, quello che successe in America quando quel tipo di musica ha incrociato un altro tipo di messaggio, cioè quelli bianchi, quelli cristiani, il gospel, in realtà gospel è una parola che viene da God Spell, cioè la parola di Dio. Gospel vuol dire Vangelo, per cui ogni musica, ogni tipo di musica che contenga messaggi religiosi può essere detto gospel. Per cui in questo caso My Bible direi che è un titolo davvero poco ambiguo e poco equivocabile, è un messaggio religioso ed è senza dubbio gospel. E allora, finita un po' questa fase di questo episodio pilota in cui abbiamo detto un po' di fatti, abbiamo riflettuto molto, adesso veniamo un po' a quello che possiamo dire è forse un po' la ragione che sta sotto il motivo per cui facciamo questo programma, perché di nuovo noi crediamo che la black music sia all'origine un po' di tutto, di tutta la musica che siamo abituati ad ascoltare, e dunque veniamo un po' a noi. Perché io appena ho cominciato a pensare al gospel mi è venuto in mente una delle cose, delle scene più magnetiche che io abbia mai visto in uno schermo. Mi veniva da dire grande schermo perché è cinema. No, non Blues Brothers. Mi veniva da dire grande schermo perché è cinema, ma in realtà l'ho sempre visto sul computer tutte le 10, 15, 20 volte che l'ho visto. No, non Blues Brothers, ma i fratelli Coen. In questo film del 2000, mi sembra, o del 99 o del 2000, che si chiama Fratello dove sei. Ah, bello, bello. E c'è una scena che io ogni George Clooney, John Turturro e il terzo non mi ricordo come si chiama, nel film si chiama Pete, un film ispirato all'Odissea, insomma se non l'avete visto davvero consigliatissimo, io ripeto l'ho visto forse 10, 15, 20 volte. E c'è questa scena da cui io ogni volta parla riesco... Parla di radio tra l'altro, no? Parla anche di radio, sì, certo, perché sì, era sì, l'epoca sì, dei Race Records, per cui questi poi sono andati in uno studio a registrare... L'episodio divertente è che il proprietario di questo studio era cieco e questi erano in tre, e allora gli hanno detto che erano in otto, ma solo tre di noi sanno scrivere, per cui gli altri firmeranno con una X. Per cui in tre hanno preso soldi per otto. Ma va bene, mentendo tra l'altro, dicendo di essere neri, perché all'epoca di Race Records il business si faceva sulle voci nere. A proposito di black music. E insomma c'è questa scena che io adoro, che ogni volta mi incanta di più e che io vi sto linkando sul canale Telegram, se non ci siete ancora entrati entrateci in questo momento, e magari però lo sentite, lo guardate dopo, perché adesso invece, visto che questa è radio e A Star Bene non è ancora una radio visiva, ma ci lavoriamo. No, non lo diventerà mai. Non lo diventerà mai, perché a noi ci piace fare la radio quando facciamo la radio, i visual quando facciamo i visual e la musica quando facciamo la musica. Se no, guardate Fedez. Questa siamo brutti, è Muschio Selvaggio. Va bene, no, noi siamo molto meglio di Fedez e Luis Sal. Seguite a star bene, non seguite Muschio Selvaggio. Meglio, più a star bene che Muschio Selvaggio. Ma insomma, questa è una scena del battesimo in cui i nostri tre protagonisti, che di sentimento religioso hanno davvero poco, vedono questo rito collettivo, questo battesimo collettivo, ed è davvero, ripeto, non, perché non trovo altri aggettivi, è davvero davvero magnetico. E la colonna sonora di questa scena è questa, Alison Krauss, si chiama il pezzo Down to the River to Pray, è senza dubbio un gospel, ma magari due parole diciamo dopo. Down to the River to Pray, Alison Krauss. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to as I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Down to the River to Pray di Alison Krauss fa parte della colonna sonora di Fratello Dove Sei, dei fratelli Coen, dell'anno 2000 o 1999. Io potevo andare a controllare un'altra volta finché girava il pezzo, invece non ci sono andato, ma insomma è un'informazione stiamo imparando. Tra il preciso e il vago, perché sicuramente è uno di due anni, ora non so dire davvero quale sia. Mentre facciamo ripartire un po' di musichetta in sottofondo, questo era senza dubbio un gospel, anche se forse non esattamente identificativo di quello a cui pensiamo quando diciamo gospel, perché una cosa, appunto, rispetto all'esperienza di cui parlavo prima, che non ho fatto io ma di cui ho semplicemente sentito parlare, dei gospel cantati nelle chiese americane le domeniche, questa è una cosa decisamente molto più tranquilla, più da studio, ma anche più da studio, più elaborata e tutto quanto. In una parola, molto più bianco. Molto più bianco, sì. Perché questo è un gospel cantato da una signora che si chiama appunto Alison Krauss, che appunto è bianca, bionda e ha pure un cognome tedesco, per cui forse una cosa meno nera di così io credo che non esista, ma è comunque bellissimo, anche solo la musica è magnetica, io non mi sono staccato dal mio sgabello e vi consiglio davvero di andare a vedere, se non proprio tutto il film, almeno questa scena. E, detto ciò, noi in questa fase stiamo cercando di riportare un po' quello di cui stiamo parlando, cioè quelle prime avvisaglie dei generi di black music, un po' riportate però ai giorni nostri. Il gospel tutti i giorni, se questa sezione avesse un nome, cosa che non ha, sarebbe una cosa simile. Allora, io su questa cosa in realtà ti voglio sollecitare dopo, anche se in realtà non è il caso di entrare troppo nel profondo, perché sappiamo è una cosa davvero davvero controversa. Ma allora, il secondo pezzo di questa piccola sezione, che si chiama appunto, che non si chiama in nessun modo, è di Kanye West. Okay, quindi che è tipo una sottosezione della sezione del gospel, sì, giusto? Okay. È per portare un esempio di come il gospel è... Il gospel, in quanto uno dei primi generi di black music, anche se abbiamo detto il gospel non è esattamente un genere, ma insomma come fatto che appartiene a quei tempi, sopravviva tutti i giorni, non solo in situazioni religiose, ma anche in situazioni discografiche. E quali situazioni discografiche? Kanye West è uno degli artisti che vende più dischi al mondo. Certo, perché comunque dobbiamo ricordare che comunque il gospel esiste ancora, non è un genere andato in disuso, esatto, dimenticato. Ogni volta che tu in una canzone parli di qualcosa di religioso, stai facendo gospel. Quando è cristiano, soprattutto, perché gospel, di nuovo, è esattamente la traduzione di Vangelo. A proposito di gospel, Kanye West nel 2019 ha prodotto e rilasciato un album che, di nuovo, ha il titolo davvero molto molto poco ambiguo, cioè Jesus is King. A proposito di messaggi religiosi, dentro questo album c'è questo pezzo che si chiama Use This Gospel, che tra l'altro io trovo abbia un messaggio molto bello ed è davvero davvero musica bella, al di là di quello che possiamo pensare di Kanye West, magari di questo possiamo dire proprio due cose, perché non vogliamo addentrarci troppo. Dopo intanto ascoltiamo un po' di musica. Use This Gospel, Kanye West, Clips e Kenny G al clarinetto. Use this gospel for protection. It's a hard road to heaven. We call on your blessings. In the Father, we put our faith. King of the kingdom, our demons are trembling. Holy angels defending. In the Father, we put our faith. Not be the greatest in my bed undercovers when undercovers had raided. My presence is happy belated, fashionably late. I'm just glad that you made it. The best is yet to come. I'm just glad that you waited. They all said it real till it's time to appraise it. I seen them come and go. You only the latest, but who am I to judge? I'm crooked as Vegas. Use this gospel for protection. It's a hard road to heaven. We call on your blessings. In the Father, we put our faith. King of the kingdom, our demons are trembling. Holy angels defending. In the Father, we put our faith. A lot of damaged souls, I done damaged those. And in my arrogance, took a camera pose. Caught with a trunk, a Barry Manilow. They sing a different tune when the slammer close. From the concrete grew a rose. They give you rave talk, I give you faith talk. Blindfolded on this road, watch me faith walk. Just hold on to your brother when his faith lost. Use this gospel as protection, diceva Kanye West nel 2019, di cui tra l'altro questo pezzo c'è una versione con un feat di Eminem in un album, nell'album di quest'anno di DJ Khaled. Ora io non ovviamente io non l'ho sentito, no, neanche non so io, quanta gente l'abbia fatto, no io non l'ho fatto. Tra l'altro non so cosa pensiamo di DJ Khaled, non saprei cosa aspettarmi. Io personalmente non sono un grande fan, non sono neanche un grande fan di Kanye, però in realtà possiamo dire che, cioè, questa cosa era davvero bella, a me piace davvero tanto, e appunto è la dimostrazione che come possiamo dirla, Coli? Il gospel, la black music non muore mai. Poi. No, ma è più che altro una cosa che funziona, cioè. È coinvolgente, capisci subito quando si tratta di. Parola di Dio. Quindi gospel. Gospel, yes sir. E tra l'altro, parlare di Kanye West, magari c'è qualche algoritmo che sente che ne abbiamo parlato e ci spinge quindi, questo podcast, certo, questa diretta. Magari. Dunque, fatelo voi gentili ascoltatori. Esatto, fatelo voi, condividete. Se non siete venuti, venute oggi, venite la prossima volta, che ve lo ripetiamo. Sarà mercoledì 25 gennaio, sempre in diretta su stabene.com, su Radio Exalge, live dal vivo da Exalge Milano. Magari vi portiamo qualche chicca, magari ci sarà un live, chi lo sa, vediamo. Cioè, esatto, magari c'è qualche DJ set dopo, chissà cosa succederà. Mentre stiamo ancora sentendo questo bellissimo disco che si chiama Zombie di Fela Kuti, che è del 76, e noi stiamo arrivando davvero un po' alla fine di questo episodio pilota. Mi piaceva chiamarlo pilota e non episodio 1. Giusto, meglio. Perché oggi era un po' mettere le basi. Oggi abbiamo fatto una puntata che è un po' diversa dalle puntate successive che abbiamo pensato. Perché oggi, uno, avevamo bisogno di un po' di ascolti che chiamiamo didattici, anche se alla fine non sono stati molto. E avevamo bisogno di mettere un po' delle basi teoriche, diciamo. Però appunto di parlare di fatti e di cose storiche. Anche per noi, per capire un po' se potevamo andare bene. Esatto, se eravamo veramente in grado di fare questa cosa, esatto, che avevamo pensato. Non è scontato, questo, non è scontato. Questo non lo possiamo dire adesso. Ditecelo voi nei commenti. Bravissimo, nei commenti di cosa non si sa, però almeno sul canale Telegram entrate, commentate, noi lo aspettiamo, commentate. Vi leggiamo. Per chiudere un po' il cerchio, abbiamo trovato, io e Coli, questo articolo davvero interessante, che di nuovo tra poco vi linkerò sul canale Telegram, che parla della nuova scena rave, techno, house, un po' tutti questi. Nuova, cioè ormai di nuovo, ormai non si può più parlare di nuovo, perché nuovo vuol dire 2022 del mese scorso. Hai ragione. Si parla di 2010. Nuova in relazione alle cose che abbiamo sentito sostanzialmente finora. Abbiamo sentito Nina Simone del 67, abbiamo sentito, però sì, hai ragione, giusto. Anzi, giustissimo. Neanche, scusate, direi prima, anni 90, alla fine, perché poi, e di nuovo, non vogliamo anticipare niente rispetto a quella che probabilmente sarà l'ultima puntata di questa stagione. Parlerà un po' della black music nel mondo del clubbing, è un fatto fondamentale, successo a Berlino nel 91, non voglio sbagliare, la prima love parade, 1 milione di persone a ballare techno, house e queste nuove musiche all'epoca per le strade di Berlino. E dunque, un po' per chiudere con questo cerchio di questo episodio pilota, torniamo alla connessione che abbiamo fatto all'inizio tra musica e danza. Abbiamo sentito un esempio di qualche cosa ispirato a quello, e sostanzialmente parliamo di una musica molto minima, una musica che quasi non è musica ma è davvero solo ritmo, una musica che non ha senso di esistere, di essere ascoltata senza un corrispondente movimento del corpo. E in questo senso il nuovo Vangelo è davvero interessante, davvero suggestivo, questa cosa che scrive Red Bull Academy, e vi sto linkando questo articolo che tra l'altro sarà una fonte di quella puntata di cui vi ho parlato, ma intanto nel frattempo lo leggiamo insieme, o meglio, noi ne parliamo, poi ce lo leggiamo, il nuovo Vangelo della musica elettronica. Tra l'altro noi mentre preparavamo questa puntata è successo solo sto fatto che è stato comunicato come il decreto rave, che è una cosa che invece non lo è assolutamente, però fatalità, si è parlato molto di festa, di libertà di festa, ed è davvero interessante pensare a questi fenomeni di nuovo relativamente nuovi come episodi antichi, non so, che non nuovi ma antichi, di nuovo chiudere quel cerchio che unisce musica e danza, che unisce musica e corpo, che unisce un po' le coscienze. Ci sarebbero tantissime cose da dire su questo fatto, e speriamo di avere modo di dirlo nella puntata qui che dedicheremo a questa cosa. Nel frattempo io ho molto piacere di parlarvi di questo progetto, infatti mi fa piacere vedere Letizia qui con noi, che si chiama è un progetto di Italia Music Club e Equally, che è Fight for Your Right to Party, che sostanzialmente va a insistere, è bellissimo, e va a insistere sulle differenze, le diseguaglianze nel diritto alla festa, sostanzialmente in senso di parità dei sessi. Noi uomini bianchi etero siamo davvero privilegiati in molte situazioni. In una situazione in cui magari spesso non ci pensiamo è quella della festa. Noi ci andiamo con molti meno pensieri, dobbiamo programmare molto meno, ed è una cosa che fa sempre bene tenere a mente. Mi piaceva richiudere questo cerchio dal rito precoloniale dell'Africa occidentale al rito del terzo millennio, che è la festa, il ballo, l'alterazione della coscienza, possiamo dirlo. Noi non siamo proibizionisti in nessun senso, anzi, allora diciamo che come a star bene noi tendiamo, e Nene me lo conferma, ad astenerci o a non parlare troppo di politica, ma se ci sono due fatti su cui noi davvero sentiamo di voler esprimere la nostra, è sull'antiproibizionismo e sulla libertà individuale, soprattutto sulla libertà di ballare e di, non a caso, stare bene. Dunque, Coli, per me è stato davvero bellissimo portare quasi a termine questa prima diretta radiofonica. Abbiamo appena iniziato, questa è stata solo la puntata pilota, quella prossima sarà episodio 1, perché non episodio 2. Giusto. E niente. Questa era la cosina didattica che dovevamo fare, appunto, come avevi detto tu per la prima, per rodarci un attimo, e vediamo. Dovevamo mettere le basi, fare la prima diretta insieme. Noi speriamo le ultime cose, gli ultimi pensieri, e secondo me andremo avanti. Esattamente, prosegue la cosa. Convinto, tant'è che allora facciamo che quest'altro pezzo te lo faccio annunciare a te. Io ricordo a tutti e tutte quelli e quelle che stanno all'ascolto di seguire Star Bene su tutti i social vari, di entrare nel canale Telegram, così poi ne parliamo tutti e tutte insieme, di seguirci, di seguire Battito Madre, il cui prossimo episodio sarà di nuovo mercoledì 25 gennaio 2023, nel nuovo anno, minchia con ansia, e parleremo di... no, non lo diciamo ancora. E vabbè, io direi che possiamo ringraziare di nuovo Nene alla regia, Cello che ci ha dato una mano, Silo che ci ha dato una mano con la parte tecnica, Ex Alge per ospitarci, a star bene per farci fare questa cosa bellissima che è la radio. Possiamo andare a girarci quest'ultimo pezzo, che è un po' un esempio di quello di cui stavamo appena parlando, cioè sì, del nuovo vecchio ballo. Sì, del nuovo vecchio ballo, ma anche appunto del far tornare, ma magari quasi in maniera... A questo punto direi, cioè, bella definita, far tornare la black music e i ritmi africani in quella che è la musica di oggi. Lo fa Mark Ernestus, se non sbaglio. Sì, sì, è molto complicato. Mark Ernestus. Mark Ernestus' Daga Rhythm Force. È un artista di Berlino, tedesco se non sbaglio, non so se è di Berlino, che è, tra l'altro è mezzo del duo dei Basic Rhythm, gruppo più importante, eccetera, eccetera. Che cosa fa? Ha semplicemente trovato musicisti nativi afroamericani che portavano e suonavano musica di quei griot di cui parlavamo all'inizio, specifici, mi sembra, africani, quindi dell'Angola, mi sembra dell'Angola, comunque di una regione abbastanza specifica. Dell'Africa occidentale, esattamente Africa quello occidentale. Di cui parlavamo prima. E attuati a quella che è la produzione contemporanea. Quindi sentirete poliritmia, sentirete però a questo punto bassi belli pompati, cose lente, cose veloci. È un bel mix di tutto quello che ci siamo detti oggi. E vedi se poi non la balli questa cosa. Noi ci salutiamo, grazie di essere venuti e venute, grazie di averci ascoltato. Battito Madre torna mercoledì 25 gennaio da Exalge, sostrabene.com e Radio Exalge. Grazie Cole, è stato bellissimo. Grazie amici, grazie Pierino. Ma tutti pangati in chi è stato